A voi. Grazie Aldo Giannulli. Davvero, interventi subito. Eccolo. Francesco Gironda. E ti pare. Io faccio la contraltare a quello che è stato detto qui, anche perché il gruppo deve rifare. Sì, però se vieni qui mi sento. Di qua? Allora presentiamo questo ospite inatteso, diciamo così. Diciamo uomo d'esperienza, Francesco Gironda. Mi sentite? Allora, tanto per iniziare bene che io faccio una presentazione così rompiamo subito il campo ai equivoci. Io sono stato per lungo tempo il portavoce della radio. Di conseguenza, adesso che avete inquadrato, sapete quali sono le fonti che io ho avuto in qualche misura sul piano dell'informazione a differenza di altri. Naturalmente. Questo tipo di fonti sono soggette a giudizio, così come io sottopongo a giudizio le fonti di cui si è parlato in questo dibattito. Allora, cosa significa controinformazione? Significa giudizio su delle informazioni. Esisteva un movimento largamente diffuso, citato come movimento addirittura superiore a quelle che erano le strutture degli stati per raccogliere informazioni su avvenimenti che erano riservati, segreti, taciuti, nascosti, opposti, via dicendo. C'è un primo errore. Ciò che quelle persone raccoglievano non erano informazioni. Erano notizie da verificare, perché quando una persona incontra un avvenimento e lo racconta, perché sente questo suo dovere, a qualcun altro che ha una funzione di collettore, io cerco di ipotizzare che un militante di un movimento extraparlamentare, piuttosto che un operaio, piuttosto che uno studente, piuttosto che uno in famiglia che ascoltava dei racconti, li raccontasse a qualcun altro e poi attraverso una serie di film successivi questa notizia arrivava a un centro che poteva prenderla e unirla con altre notizie per valutarne primo l'attendibilità e poi l'utilità a qualche cosa d'altro. Allora una notizia diventa un'informazione quando è verificata. Altrimenti si possono prendere degli avvalli di carattere gigantesco. Ma noi accettiamo il dato, non lo sappiamo. Qualche uno che ha partecipato a quella grande avventura che è stata l'elaborazione finale della controinformazione militante di quegli anni e che ha portato poi a determinare l'asse culturale e ideologico del diritto di Stato, della strada di Stato, diamo per scontato che abbia preso e fatto le verifiche. Allora, a questo punto, quella che è stata una notizia diventa un'informazione fruibile. Cioè, deve essere utilizzata, o può essere utilizzata. Può essere utilizzata per fare due cose. Per prendere e procedere a un'operazione di contrasto che si formalizza attraverso degli atti che impediscono che ciò che si è scoperto e che si considera un reato, una cosa negativa e via dicendo, possa essere portata a termine oppure che essa venga punita e quindi sanzionata perché non si possa ripetere in futuro. Oppure può essere utilizzata per un'operazione di disinformazione. Questo è quello che avviene in tutte le centrali dei servizi segreti del mondo, sia che essi siano istituzionali, cioè appartengono a delle entità statuali, sia che esse appartengono a movimenti di carattere spontaneo, anche se riconosciute con funzioni di carattere democratico, rivoluzionario, eccetera, eccetera. Quindi la notizia che è diventata informazione, diventa verificata insieme a altre, ha due strade. La persecuzione di una colpa, più la persecuzione, scusate, la repressione di una colpa, oppure trasformazioni in disinformazione. oppure depistando chi ha una funzione che potrebbe essere non voluta da coloro che sono quelli che iniziano la controinformazione o quelli che iniziano il processo di informazione. Benissimo. Quanto dice Aldo nel suo libro di negativo e di positivo è sufficiente per definire il risultato di quell'epoca e di quell'operazione di controinformazione? Io non ne sarei tanto sicuro. Posso dirvi che noi siamo giunti alla conclusione che c'è stato, ed è descritto molto bene in qualche trasmissione di Blu Notte, ma in altre trasmissioni, in film e via dicendo, c'è stato, e viene descritto dalla società italiana, uno Stato persecutore della democrazia che attraverso mezzi cruenti ha cercato di conculcare le libertà e la naturale espressione del processo democratico e via di questo passo. Pensate che solo la definizione del quantum di questo racconto altera completamente quello che è l'effetto in coloro che ricevono questo tipo di racconto. Per esempio, è veramente lo Stato. Ma cos'è lo Stato? Lo Stato è l'istituzione organizzata dei nostri rapporti civili, politici. Se un pezzo dello Stato, cioè se un gruppo di persone si organizza all'interno, si incista come un cancro nello Stato e prende e tenta un'operazione che è contro le libertà dei cittadini e via dicendo, questo è lo Stato che compie questa colpa. Oppure lo Stato compie la colpa di non mettere in atto dei mezzi di protezione e questo che è avvenuto? Beh, noi abbiamo salvato la democrazia. Alcuni dicono perché c'è stata la controinformazione, altri dicono perché lo Stato aveva in sé tutti gli anticorpi per prendere, reagire e combattere contro la regressione. Questo nel discorso e nel disegno che noi vediamo oggi rappresentato, non vi dico in termini di egemonia assoluta, ma certamente in larga misura, a mio avviso, non ha risolto questo tipo di problema. E quindi io sono preoccupato dell'effetto della museificazione che sta avvenendo in questo senso. Vedete, io faccio qualche accusa all'amico Lucarelli. Io ho studiato questo tipo di cose, perché appartenevo a una struttura che doveva servire in una determinata ipotesi molto drammatica della storia futura del paese, e ho studiato tutto quello che si fa sul piano della guerra non ortodossa, della clandestinità, delle rivoluzioni, e dicendo, naturalmente lavorando con le esercitazioni e studiando sui libri. Io posso dirvi, per esempio, una delle cose che si fa normalmente quando si vuole attaccare qualcuno è attaccarlo, diffamandolo per contiguità. Io dico, per esempio, che lei oggi è qui all'università, ma contemporaneamente un mafioso che è stato riconosciuto in un'altra aula era presente a ascoltare un'altra conferenza. Come mai lei era qui? Beh, le posso assicurare che con un meccanismo di questo genere lei costruisce una falsa storia che sembra credibile. Cioè, se io metto insieme cose che possono stare insieme, dato l'oggettivo, lei è qui oggi, io sono qui oggi in un'altra aula, c'è un mafioso. Guarda, state tranquilli, da qualche parte c'è un mafioso in questo momento dell'università. Se noi prendiamo e mettiamo insieme queste cose, abbiamo fatto un'operazione di disinformazione e di intossicazione. Deve avere un fine questa operazione. Quindi, esattamente come la controinformazione mette in guardia e addestra la gente a verificare, quello che vi sto dicendo io vi dovrebbe insegnare anche a verificare quanta parte della controinformazione di per sé stessa può essere intossicante. E quindi quello che vi ha detto Aldo nella parte finale del suo discorso è di un'importanza fondamentale, cioè la memoria ha diritto, per il fatto che la partecipazione è stata personale, di essere dolorante e di avere in qualche maniera una sua faziosità, che noi dobbiamo cercare di ridurre quanto è possibile, quando dobbiamo procedere a un giudizio di carattere finito. La storia non può veramente nessuno. Ora io mi faccio a deposito, e poi mi metto al posto, parlato fin troppo, vi ringrazio, un'accusa a coloro che oggi ci raccontano come è stata bella la controinformazione di quell'epoca. Il fatto che il racconto è solo autoreferenziale, non avviene mai il confronto. Se lo dico mi avessi invitato a venire qui a ascoltare il suo libro, noi ci confrontiamo spessissimo su questo tipo di cose, io poi faccio l'editore, poi lui qualche volta interviene, diciamo, non porta avanti questa tesi che è sbagliata, il documento via dicendo. Io vi dico che noi dobbiamo imparare ad andare a confronto, senza vergogna e senza problemi. Se la controinformazione è azione di natura politica, come tale non è un'operazione che rientra nei mezzi con cui si scopre la verità. Ti insegnano a combattere politicamente un avversario. Esiste una controinformazione di sinistra, esiste una controinformazione di destra, voi non avete idea. Quando si deve affrontare il problema strategico, attenzione, la fatica che si fa a affrontare con la destra esattamente come con la sinistra, secondo gli argomenti, la ricerca di una testimonianza che sia asettica e non filtrata dalla scelta politica che ciascuno degli interlocutori farà. Noi dobbiamo cercare, che è l'unica formula che abbiamo per cercare di avvicinarci, se non altro, all'analisi di tutti gli elementi sul campo, e non solo da una parte, di lavorare a questo, senza vergognarci, magari di arrabbiarci di quello che dice Lucarelli quando lo ascolto io, ma io gli parlo in telefono, gli dico non sono d'accordo perché hai detto questo. È un tentativo che vorrei che fosse più ampio, come Aldo sa, io da tanto tempo che racconto, che se non facciamo questo noi non ce la caveremo. Avremo due storie, due Italie diverse, ciascuna autoreferenziale. Se la storia viene raccontata in una certa area politica, è una storia che per esempio l'area politica contrapposta non riconosce, non sa neanche che quelli pensano che è così. E questo è pericolosissimo, perché nei momenti di crisi non c'è mai punto di intesa su quello che l'interessa in cui. Vi ringrazio. Vuoi farlo, vuoi rispondere subito tu? O facciamo... Facciamo un po' di... Sì, poi... Se c'è qualche altra domanda, così poi facciamo un giro di risposte unico, se no facciamo subito magari replicare Lucarelli. No, stimola però per esatto, altro intervento. Io... No, mica solo io, rispondiamo. Poi sì, rispondono tutti. Non abbiate paura. Renato Sarti. Renato Sarti. Grazie di essere presentato. No, una domanda che rivolgo a Carlo, Aldo e Carlucci, che però è un'occasione per dare un'informazione che ci tengo sempre a dare in tutti i posti dove vado, che è su un recente sondaggio, e non so i ragazzi che sono qui, di quale provenienza sono dal punto di vista degli studi, delle fondazioni, delle tutte, ma un dato raccolto l'anno scorso sul sondaggio fatto a Milano, racconta che il 46% dei ragazzi a Milano, quando di Milano, non di Caltanissetta, non di Bari, non di Catania, non di Cagliari, reputa, crede che la strage di Piazza Fontana, sul sondaggio fatto dall'Istituto di Sesto, crede che la strage di Piazza Fontana sia stata fatta dalle Brigate Rosse. Il 60% dei ragazzi non sa collocare in quale decennio è avvenuta questa strage. Domanda che faccio loro, oltre a aver riportato questo dato che a me sembra sempre un dato abusivo, no? E come mai è potuto accadere, al di là delle logiche che ci sono state dietro, come mai è potuto accadere questo straordinario, incredibile risultato da parte di una certa area politica, considerando come assolutamente un disastro, perché questo è un disastro. Senza ricordare i dati sulla strage di Bologna raccolti dagli studenti di Bologna. Ecco, quindi questa è la domanda che pongo, in realtà la sollecitazione anche per discutere cosa sta succedendo in questo paese. Visto che l'ha citato, la Fondazione ISEC ha un sito dove potete trovare le cifre che sono appena state citate, www.isec.it, potete trovare tutto ed è francamente incredibile quello che potete trovare. Sollecita qualche altro. Se ci sono. È impossibile che non ci siano domande. Dubbi, domande. Due sono le cose. Curiosità. Qua abbiamo stroncato l'auditorio. O qualcuno deve intervenire. Sia nell'incontro della settimana scorsa che in quello di oggi, ebbene si fa la storia soprattutto con domande e con ipotesi che si può anche immaginare che non riceveranno mai una risposta sicura. Ho come la sensazione che per molti ragazzi e per molte persone in questo modo si esca dalla dimensione della storia e si entra in qualche modo nella dimensione del mistero, del giallo, come di una vicenda affascinante. Se così fosse effettivamente, il lavoro che viene fatto avrebbe ancora un valore o perderebbe tutta la portata che hanno certe domande, perderebbe tutta la portata che tutto questo lavoro si propone di fare? Nessun altro? Mi aggancio io all'ultima riflessione che ha fatto lui per fare una domanda. Primi saluto Giannulli perché fa lo storico, ma anche eventualmente agli altri relatori. Quello che dicevi tu sono d'accordo, nel senso che se rimaniamo sul mistero, rischiamo di le fonti. Io quello che vorrei chiedere a Giannulli è il fatto che secondo me, soprattutto per noi che studiamo storia contemporanea, bisognerebbe aprire un vastissimo capitolo sullo studio delle fonti, dai giornali all'interpretazione delle fotografie, che non sono assolutamente una fonte neutrale, allo studio degli atti giudiziari che non viene fatto e non ci viene insegnato in università. Per cui la domanda è un po' che lavoro bisognerebbe intraprendere per arrivare a non cadere nell'errore che ci segnalava l'ultima domanda, perché sennò purtroppo poi alle 12.45 dopo di noi c'è un'altra lezione, per cui dopo iniziamo le risposte, se no non facciamo in tempo. Sentivo la questione delle sollecitazioni. Non abbiamo stroncato un Vittorio che stava aspettando i cosiddetti reduci, visto che si era detto facciamo parlare. Io sono in una fascia anagrafica un po' infelice, essendo 44enne, per cui diciamo sono un po' intermedio. Volevo solamente dire due cose. Una prima cosa era, insomma, forse un po' provocatoriamente, era una risposta al quesito che è stato appena posto. Tra l'altro io insegno storia, quindi mi sento, sono uno storico di questa università, quindi mi sento anche un po' chiamato in causa. Io credo che quello che il vostro collega ha individuato come un possibile errore, forse è il contrario. Cioè, se iniziamo a costruire la storia in questo modo, forse in realtà stiamo iniziando veramente a fare storia. Cioè, quando Giannulli abbia fatto il discorso sui problemi legati alle pubblicazioni di tipo accademico, e quindi allo stile, alla mancanza di capacità di comunicazione, al fatto che si dimentica che raccontiamo una storia, che è una storia, ma è una storia in realtà, e questo richiede un'aderenza a un lavoro determinato sulle fonti, che non esistono fonti neutrali, non è solo quella della fotografia, le fonti non sono mai neutrali, vanno interrogate, tutte, anche le fonti che troviamo in archivio, anche le fonti cartacee. Ma voglio dire, quando iniziamo a ragionare in questi termini, forse iniziamo a fare storia. Se voi prendete i volumi scritti dagli storici anglosassoni, ma anche dagli storici francesi, eccetera, notate questa capacità di racconto e lavorare sulle ipotesi. L'ipotesi non significa che siamo campate per aria. Ipotesi sono ipotesi fondate su fonti. Nel caso nostro non ci sono. Noi abbiamo un meccanismo accademico per cui noi scriviamo non per voi, non per i lettori, ma per le commissioni che ci devono giudicare, quando siamo ricercatori, quando siamo associati, quando siamo ordinari. E un determinato stile può essere decodificato da questo punto di vista. Noi siamo la tragedia degli editori da questo punto di vista. E questo è drammatico, e non è una battuta. I libri di storia, cioè che si occupano di storia, vendono moltissimo, ma in Italia non sono quasi mai firmati da storici. Sono firmati spesso da giornalisti e non solo. Questa è una cosa su cui dobbiamo interrogarci. L'altra cosa che volevo dire da questo punto di vista, appunto, sgombrare quel campo da un equivoco. Siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo lavorare nel passaggio tra memoria e storia con un determinato distacco, questo è evidente. È giustissimo quello che dice, quello che diceva Don Giannulli e quello che è stato detto prima. Attenzione, questo non ci deve portare a pensare poi che lo storico e anche lo storico non si muova ovviamente avendo un proprio sistema di valori ed emettendo dei propri giudizi di valore. Questa, come dire, sono due cose completamente diverse. Non esiste neutralità della fonte, ma in un certo senso anche le ipotesi che formuliamo sono appunto ipotesi, e non dobbiamo pensare che il fatto che ci sia un'identità culturale, politica, che in alcuni casi viene definita in altro modo, gli storici cattolici parlano di umanità dello storico, no? Oppure c'è tutta la tradizione liberale sul giudizio di valore, ma il concetto è quello di identità, questa c'è, siamo oggi. La cosa singolare è che se noi andiamo a vedere le cose che sono state scritte dal 1969 e primi anni 70, la sensazione era allora quella di un'enorme dilatazione della storia. Cioè c'erano militanti, Mughini per esempio, che era un militante politico di allora, che negli anni 70 parla di quello che è successo due anni prima dicendo elaboriamolo col metodo storico. Cioè Potere Operaio, la rivista che racconta nel 1969 degli esordi del movimento del 67, usando sulla autostudietta allora, usando il passato remoto e usando uno stile che ci dà l'idea di una collocazione remotissima. Perché questa cosa? Perché quella dilatazione della storia allora in realtà era, come dire, funzionale alla visione ideologica, perché storia era tra virgolette uguale verità in costruzione. Quella dilatazione è stata la premessa poi perché succedesse in un certo senso il contrario, per cui annullamento della storia e dilatazione del presente oggi da parte spesso di quegli stessi attori. Cioè voi pensate solamente una cosa, io ho visto Giannulli, e forse spero che lui non se lo ricordi, contestato a un seminario un paio di anni fa all'università da colleghi per il fatto che si occupava di cose troppo recenti. Beh, vi ricordo solamente che tanto per fare nomi, quando gli storici defiliciani iniziano a occuparsi del fascismo, o quando personaggi importanti e enormi come Benedetto Croce scriveva la storia dell'Europa capitale, erano stati meno di 40 anni dagli eventi che avevano finito di descrivere. E solo oggi che c'è questo tipo di problema, forse sarebbe il caso di interrogarsi sul perché. Le risposte fatto io, sono chiamato in casa anche direttamente dall'avvocato Gironda e rispondo. Io sono d'accordo su questa, su questo metodo, cioè su questa cosa che dobbiamo fare, quella del confronto, e sono d'accordo perché non possiamo andare a, se vogliamo trasformare la memoria in storia, appunto dobbiamo trasformarla in una storia che sia in un certo senso e fino a un certo punto condivisa, fino a che questo è possibile, perché altrimenti ci ritroviamo con due storie parallele che vanno avanti, con due controinformazioni parallele, speculari, che in effetti non si incontrano mai. Parliamo soltanto tra di noi e quando arriva qualcuno dal di fuori, che non appartiene a queste due storie parallele, che non ha fatto una scelta politica, non capisce quali siano delle due le versioni, quelle più, insomma, quelle vere, rimane a metà e non sa più niente. E allora ecco che arriva la risposta di chi è stata per saltare. Anche la stazione di Bologna viene attribuita alla Brigata Rossa, per esempio. Io vengo da Bologna e anche lì si è fatto un sondaggio da molti studenti bolognesi che dicono cosa sono. Su questo sono perfettamente d'accordo. Bisogna intendersi però. Allora, è vera questa cosa. Se adesso c'è un signore che sta qui e poi qui c'è anche un mafioso, per continuità, se io come dico che questo signore ha a che fare con il mafioso, faccio quell'operazione di disinformazione. Noi, devo dire, cerchiamo di non farlo. E le volte che ci è capitato di fare un errore di questo genere è un errore, non è una strategia, ogni tanto ci parliamo, io vengo accusato di essere un disinformatore, ma non sono così bravo né così intelligente. Se posso permettermi una battuta, eravate più bravi voi. Per scherzo. A volte succede di sbagliare, però attenzione, io non vorrei, anche qui non voglio dire strategia, chiaro, do credito alla buona fede, non vorrei però che cadessimo nell'errore opposto, che è quello di dover ridiscutere tutto. E questo è un problema. Se quel signore che sta lì sta nella stessa stanza con un mafioso, se io dico che lui è un mafioso, ha qualcosa a che fare con lui o si trovavano qua, sto facendo una forzatura. Sarebbe bello avere un'opinione pubblica, e questo è uno dei grossi problemi anche nostri, un'opinione pubblica abbastanza brava, in gamba, allenata, informata, da capire che io sto facendo una forzatura se lo dico, e quindi sanzionarlo come opinione pubblica. Però se quel signore, io l'ho visto, o c'è una fotografia, c'è una telecamera che l'ha ripreso, che uscendo ha salutato il mafioso, gli ha stretto la mano e si sono baciati, posso ipotizzare che si conoscevano. Posso dire con un mafioso anche lui, però posso dire che quei due almeno si conoscevano. Se noi, faccio l'esempio, ma per dire, se noi dobbiamo ritrovarci da due parti del tavolo a ridiscutere della memoria, va benissimo, ma non rimettiamo in discussione, per esempio, che due che si baciano si conoscono. Partiamo da dei fatti. Ci sono alcuni fatti sui quali anni e anni di indagini della magistratura hanno dato una concretezza. Allora, forse la prima cosa che dobbiamo fare è metterci lì e dire quali sono i fatti concreti su cui siamo d'accordo tutti e due, con un atteggiamento molto laico, come si diceva prima, poco reticente e sicuramente aperto e non strategico. Ma questo sarebbe bello fare. È chiaro che ce ne vuole. Devo dire che siamo un paese particolare, purtroppo, infatti abbiamo, dobbiamo fare uno sforzo, forse le generazioni prossime riusciranno a farlo, uno sforzo molto forte per uscire da questa impostazione ideologica, che tutto sommato poi il buon senso servirebbe a dire che cosa può sembrare più vero di un'altra cosa, perché è una malattia questa della controinformazione, della dietrologia, perché non è che ci siamo presi noi italiani così perché fa parte del nostro DNA, ma il fatto che controinformazione nel dizionario italiano significhi qualcosa di diverso rispetto agli altri paesi in cui controinformazione significa qualcosa di molto tecnico, non è una bella cosa. Vuol dire che da noi è stata necessaria quel tipo di controinformazione. Ci siamo ritrovati di fronte a tanti episodi in cui qualcun altro, e qui sono d'accordo, va definito lo Stato, pezzo dello Stato, chiunque, insomma, qualcun altro ci ha proposto un'informazione che era sbagliata. Se stessimo ancora all'ingenuità di chi accetta quello che viene proposto dagli organi di informazione, il bandito Giuliano sarebbe stato ucciso da una sventagliata di raffica dei carabinieri. Sappiamo che non è così, poi adesso qui si può entrare nell'aneddoto, ma diventa lungo. Allora c'era Brecht che diceva: no, benedetto quel paese che non ha bisogno di eroi. Sarebbe bello dire: benedetto quel paese che non ha bisogno di controinformazione. Noi purtroppo ne abbiamo avuto bisogno. Allora io sono d'accordo, parliamoci, ragioniamo. Però partiamo da una base, no, di reciproca sincerità e di buon senso soprattutto. Poi rispondo soltanto ad un'altra domanda, anche qui poi magari avremo occasione di fare altri dibattiti su questo, che è questa: a cosa serve adesso? Serve, secondo me, comunque questa controinformazione. Io prima ho parlato del muro di gomma, però a volte succede che esiste la necessità di una controinformazione e questa controinformazione, almeno in due episodi che io posso citare, abbiamo visto che ha funzionato. Uno è quello di Genova, che si diceva prima. Non mi rifaccio all'idea generale di quello che è successo a Genova. Se fossimo stati all'informazione ufficiale, se vi ricordate come ci è stata proposta, dopo i primi telegiornali in prima battuta, da lì in poi l'informazione per tanto tempo è sempre stata: è successo un gran casino, c'erano un sacco di manifestanti violenti e è successo quello che è successo. Io sto all'informazione che ho avuto mia zia, che fluisce soprattutto in un telegiornale che è il TG4, e mia zia, fino a che non sono arrivate alcune immagini in televisione con altri mezzi, che sono stati alle 3 di notte i documentari, i film fatti su Genova, poi Minoli, che credo andasse in onda verso le 11:30, una cosa del genere, e poi noi, che abbiamo inciso un po' di più, non perché siamo più bravi, ma perché andavamo in onda alle 9, quindi ci hanno visto un po' di più. Finché non sono arrivate alcune immagini sugli organi di informazione con vie traverse, mia zia ha continuato a pensare che ci fossero stati un sacco di carabinieri e di poliziotti massacrati da dimostranti violenti, mentre invece sappiamo che la cosa è andata diversamente. Ma non solo, faccio un esempio piccolo e concreto del fatto che adesso la controinformazione ha un'enormità di possibilità. Una cosa così negli anni 60 non sarebbe potuta accadere. Adesso, come succede qualche cosa, c'è qualcuno con la mano alzata, col telefonino, che sta riprendendo. È vero che sono tutte informazioni che sono manipolabili, non sono mai neutre, è chiaro, però a quel punto bisognerebbe ragionarci sopra, avere la possibilità di verificare. Però è anche vero, per esempio, che uno dei ragazzi che noi abbiamo intervistato per Genova era un tizio che era stato accusato di aver fatto resistenza alla forza pubblica durante un arresto, ha preso un fracasso di botte, però l'accusa che gli era stata fatta era che lui aveva reagito, era uno di quelli con un bastone in mano, ha aggredito i carabinieri e i poliziotti, loro lo hanno picchiato. Beh, grazie a una sorta di rete di controinformazione, tutti gli appelli di media, i telefoni, eccetera, eccetera, è riuscito a produrre una serie di immagini che facevano vedere benissimo che lui usciva da un barco, Vareto, e non ha fatto assolutamente niente, tanto che è stato assolto dall'accusa. Un'altra cosa è questa, di come i mezzi di controinformazione molte volte servono, ed è il caso di Aldrovandi di Ferrara, che è un ragazzo di Ferrara che viene arrestato dalla polizia una notte e muore durante l'arresto. La prima informazione in prima battuta, e per un certo periodo è questa, visto che non ci sono altri mezzi, è l'informazione ufficiale che viene data dalla polizia di Ferrara, che è: questo ragazzo era strafatto, dava in escandescenze, abbiamo cercato di fermarlo, ha avuto un malore, è morto. Certo che c'è la magistratura che si muove, ci sono tutta una serie di atti, no, che si muovono parallelamente, è chiaro che a noi arriva un'informazione che è quella del momento, poi in realtà magari ci sarebbero arrivati anche con la magistratura un pochino dopo. Fatto sta che c'è chi non è convinto di questo, che è la madre di Aldrovandi, più gli amici suoi, eccetera, perché non tornano le cose, e ci sono una serie di evidenze che poi finiscono agli atti del processo, che sono manganelli rotti, l'autopsia, lasso di tempo strano che passa da quando viene chiamata l'ambulanza fino a che all'inizio che viene stato arrestato, una serie di contraddizioni, e poi saltano fuori una serie di persone che ti dicono: noi abbiamo visto un'altra cosa. E saltano fuori anche una serie di riprese, di immagini, che fanno vedere come non sia andata esattamente come dicevano i poliziotti. Cosa fa la signora Aldrovandi per informare? Fa un blog su internet, che si nutre, questo blog, di una serie di testimonianze, diventa uno strumento di controinformazione e soprattutto di pressione. Si muove la città di Ferrara, si muove i sindacati di polizia, cominciano insomma e le cose vanno in modo diverso. Adesso ci sono quattro poliziotti sotto inchiesta, il processo dirà quello che dirà, eccetera, eccetera, salvo prescrizione, tutto quello che volete. Allora, serve? Sì. Serve anche parlarsi? Sì. Sarebbe bello farlo. Questo è il nostro paese di supplenze. La magistratura è chiamata a volte a fare la supplenza della politica, che non decide, e il giornalismo spesso è chiamato a fare la supplenza della magistratura, che quando decide ormai decide, come dire, a babbo morto. Sono pochissime le sentenze che hanno in qualche modo fatto giustizia, luce, verità su fatti importanti del paese. E quindi si dice del giornalismo, ma possiamo in qualche modo estenderlo a quello che ragionamenti facciamo sulla controinformazione. In realtà oggi, più che controinformazione, parliamo di informazione. L'esempio di Radio Popolare è, diciamo, una prosecuzione ideale di alcuni meccanismi di controinformazione, nel senso che con una grande platea di ascoltatori che in qualche modo si identificano all'interno dell'emittente, questi ascoltatori diventano anche fonte di notizie. Naturalmente, per carità, è stato detto e vario lì, le fonti, non esiste nessuna fonte certa, inossidabile, ma proprio tutte le fonti vanno verificate. Ma quando, che so, un esempio, ci telefona uno che abita di fronte a Linate e dice: vedo del fumo. Allora, si chiama Linate e dice: no, niente, non è successo niente. E poi chiama un altro e dice: guarda, io lavoro lì a Linate, adesso è mia moglie che è lì e mi chiama, ci sono scontrati due aerei, ci sono dei morti, eccetera. La radio comincia a dare la notizia, le fonti ufficiali negano, alle 8:30 mi pare del mattino, l'ANSA esce dicendo, secondo Radio Popolare, perché c'era stato un blocco di notizie tale, per cui soltanto Radio Popolare, attraverso gli ascoltatori che in qualche modo vedevano, erano partecipi, erano dentro la moglie, eccetera, ha cominciato. Poi naturalmente la notizia si è saputa, il famoso incidente di Linate, in cui sono. Questo solo per richiamare come funzionano questi meccanismi. Allora, nessuna fonte è assolutamente affidabile per definizione, nessuna. I nostri stessi occhi una volta ci ingannano, figuriamoci le fotografie di rivoluzione, di testimonianze di una mano, per non parlare poi di pistaggio e quant'altro. Ma la fonte ti permette di cominciare a metterti in moto, di verificare. Ci ho detto, e quindi di fare supplenza. Se in un paese si aspetta la verità della magistratura, questo non è l'Italia. Purtroppo è così. E quindi a maggior ragione si è caricata di responsabilità, di significato, di attese, forse anche eccessive, tutto il lavoro in quegli anni di controinformazione, che è stato, ripeto, questa è la mia opinione, un lavoro militante, ma non per questo, come dire, inaffidabile. Se non era un lavoro di propaganda, era un lavoro militante, noi dovevamo sapere chi aveva messo quella bomba, noi dovevamo sapere chi aveva deciso, chi aveva messo la spia, che cosa stavano preparando i fascisti del quartiere tal di tale, piuttosto Carpatella, piuttosto che al Giambellino. Era una necessità saperlo e sapere che cosa veramente stava succedendo, sarebbe successo. Quindi in questo senso c'era un discreto tasso di affidabilità nei risultati dell'informazione. Certo in altri, Giannulli poi dedica non poco spazio a questo, c'è un'affidabilità. Per esempio sulle Brigate Rosse la informazione da poco niente. Io dico c'è una ragione, la controinformazione è uno strumento politico e come tutta la sinistra extraparlamentare si trovò in grande difficoltà nei confronti della lotta armata, così anche la controinformazione rispecchiò assolutamente questo tipo di esitazione. Ma bisogna entrare con la testa nell'epoca, cioè in un'epoca nella quale i movimenti danno delle risposte politiche o formano degli attacchi politici e lo Stato, o settori dello Stato, se vogliamo, risponde con le armi, con la repressione, con le bombe. All'interno del movimento si creano delle aree che dice allora anche noi ci amiamo. Io l'ho detto in modo terribilmente semplicistico, ma questa è la base. Solo per ricordare che la controinformazione su questo terreno aveva dato poco o niente, o non voleva credere o non voleva sapere. Poi, a mio avviso, con Moro, con rapimento Moro, finisce tutto, ma quella è un'altra vicenda. E per quanto riguarda la prospettiva storica evocata dal professore, mi veniva in mente questo, che insomma, quelli di Potere Operaio, che scrivevano negli anni 60, erano molto giovani, quindi 2 anni sembrava uno strumento. Oggi gli stessi hanno qualche anno di più e quindi quel passato gli sembra un presente che non finisce più. Vabbè, data l'ora faccio in tempo a mandare 3-4 telegrammi, non di più. Allora, Francesco Gironda, anzitutto una premessa: se quando giovane extraparlamentare sfilavo per le strade della mia città chiedendo Valpreda libero, mi avessero detto che sarei diventato amico del portavoce della Gladio, avrei preso a schiaffo quello che lo diceva, insomma. Questo vi dimostra, uno, quanto la vita riservi sorprese in ogni momento che non ti aspetti. Due, significa anche un'altra cosa, che all'epoca come militante politico non mi serviva avere rapporto con un avversario col quale ci scontravamo inevitabilmente. Ma dopo, a distanza di decenni, da storico ho bisogno di parlare con chi stava dall'altra parte, perché devo capirne le ragioni. A parte il fatto che posso anche raccogliere delle notizie utili, ma a parte questo ho bisogno di capire le ragioni e il modo di pensare dell'altro se voglio ricostruire una storia in cui ci sta la parte mia e la parte degli altri. Io non credo nella obiettività. L'obiettività non esiste e lo storico obiettivo non è mai. Però io credo nella laicità e nell'onestà intellettuale, nell'avere delle regole e nell'osservarle. Il metodo è il metodo per uno storico e non meno che per un chirurgo, per qualsiasi altra persona voglia avere un rapporto scientifico con un oggetto, è prima di tutto un limite fondamentale alla propria arbitrarietà. Su questo tornerò. Dice Francesco, dice, ma sai, un'informazione diventa tale dopo che una voce, una notizia l'hai controllata, ed è verissimo questo. E questo più o meno cercano di farlo tutti quanti, con risultati diversi. Io per esempio ricordo, nella mia veste di consulente della magistratura, mi ricordo una volta acquisii un documento. Il servizio di informazione militare con l'arma dei carabinieri, quindi a spese dei contribuenti, curava una schedatura degli elementi pericolosi dell'estrema destra e dell'estrema sinistra all'interno del quale poi si ricavava un ulteriore elenco più ristretto di persone ritenute capaci di attentati con esplosivi. Dunque, io ricordo di aver fatto, essendo buon conoscitore dell'ambiente dell'estrema sinistra, ricordo di aver fatto un conto. Su 2171 persone, mi ricordo che presi questi numeri, circa 320 erano sbagliata l'attribuzione di gruppo, persone dei marxisti-leninisti mandati in lotta continua, cristiani per socialismo nel Partito Radicale, cose di pazzi. Di una quarantina era sbagliata la data di nascita, che vai all'anagrafe e la controlli. Errori vari. Di una trentina era sbagliata la città, gente di Pisa trasferita a Caricattì, che ne so, a Messina, cose del genere. E poi errori vari, che si andavano sia dall'attribuire la testata del giornale di un gruppo a un altro gruppo, non so, al ritenere che una persona facesse un lavoro piuttosto che un altro. Per non dire di persone mitissime, di cristiani per socialismo avrebbero fatto male a una mosca, inseriti negli elenchi di quelli sospettati capaci di fare attentati con esplosivo, e viceversa persone che io conoscevo e sapevo essere capaci, invece assolutamente non considerate. In quest'aula è presente una persona che ha un'onorata militanza anarchica alle spalle, che invece veniva sistematicamente indicata nei documenti come ex comunista. Cosa che, quando ho detto all'interessato, ha provocato una reazione molto violenta, cioè voleva dar querela, voleva picchiare l'informatore. Da cosa nasce questo? Dal fatto che la persona in questione lavorava presso lo studio commercialista del dottor Cesarani, che era il commercialista di fiducia del PC, e quindi in quanto tale agli occhi del carabiniere non poteva non essere uno del PC se stava in quello studio commercialistico. Che cosa stai cercando? Su. Ecco, quindi questo ti faceva l'arma dei carabinieri e servizi militari a spese dei contribuenti. E qualche errore può essere concesso alla controinformazione, che almeno lo facevano a spese dei contribuenti, ammetterà, insomma. Quindi questo problema ce l'abbiamo tutti. Così come il problema di diffamare per contiguità. È una regola che conosco molto bene, ma è una regola, è un problema che riguarda non solo chi... il giornalista, l'investigatore, riguarda anche lo storico, perché costruire una storia avvicinando suggestivamente degli elementi è uno degli elementi di autoinganno più facili in cui si può incorrere. Non è necessario che tu sia consapevole di quello che stai facendo, talvolta ti autoinganni. E allora io cerco di proteggermi ancora una volta facendo ricorso agli strumenti del metodo. Per esempio, io trovo utile applicare alla ricerca storica gli schemi della logica formalizzata, perché quando sei costretto a fare proprio lo schemino e sei costretto a dire se un elemento che stai considerando è un'induttiva debole o un'induttiva forte, lo devi pure spiegare, devi dire perché, e lì poi diventa anche un problema di calcolo, per esempio, della probabilità, perché se stiamo in 700 in quest'aula e c'è un mafioso, beh, sai, su 700 le probabilità che io e il mafioso siamo in rapporto, che non sia il semplice fatto di stare nella stessa stanza, è appunto, se mai... Ma nel caso in questione, la cultura territoriale, poiché ma in Sicilia certo. C'è la mafia, tu sei in Sicilia, puoi essere legato alla mafia. Sì, d'accordo. Francesco, veniamo al nodo. Il problema è questo. Io capisco che ci sia questo. Io cerco di difendermi applicando gli strumenti della logica formalizzata. È anche vero, però, Francesco, diciamo, insomma, noi siamo fra amici, insomma, che voi frequentavate male, eh? Onestamente frequentavate malissimo. Questo pure bisogna dirlo, insomma. Sfortunati. Ti faccio l'elenco? Beh, voi ce ne avevate uno che è stato coinvolto nel golpe borghese. Ce ne avevate uno che è stato coinvolto nel golpe borghese. No, uno che non c'entrava niente con. Degli? Che non c'entrava niente. Nell'elenco io ce l'avevo. No, era nell'elenco dei positivi, poi non lo so se l'avete scartato. Vabbè, chiariremo questo. Dottor Gianulli, i telegrammi costano. Purtroppo qui c'è l'ufficiale postale che i telegrammi costano. Te lo spiego meglio. Allora, Sono d'accordo invece sul problema di evitare di scrivere due storie. Io non credo nella storia condivisa come storia condivisa nei giudizi, però credo nella necessità di scrivere una storia condivisa il più possibile, perlomeno su cosa è avvenuto. Cioè, poi possiamo anche dire se l'unità d'Italia è stato un bene o male, o se Garibaldi ha fatto bene o male ad andare a fare l'impresa di Mille, ma almeno mettiamoci d'accordo sul fatto che a Volturno hanno vinto i garibaldini e non i borbonici, cioè almeno questo cerchiamo di stabilire. E qui vengo alla domanda che faceva Sarti. E qui invece il disastro è che, ad esempio, fra i giovani c'è un'idea molto approssimativa di quello che molti pensano che Piazza Fontana fatta le Brigate Rosse, che non c'erano nemmeno, anche stato costituita all'epoca. Molti non sanno neanche quando, non sanno il decennio in cui collocare Piazza Fontana. E quindi dobbiamo iniziare di qua. Perché c'è questo disastro? Sarti citava un sondaggio fatto dall'ISMEC di Sesto San Giovanni, un sondaggio che io riprendo pari pari nelle conclusioni del mio libro, dove ricordo alcune cose. Effettivamente è vero, peraltro l'ISMEC fece due sondaggi nel 2000 e poi nel 2006, e man mano che si va avanti nel tempo la memoria diventa sempre più sfocata. La percentuale di quelli che non sanno aumenta, eccetera, eccetera. Semmai sono diminuiti quelli che ritengono la strage fatta alla BR, ma sono aumentati quelli che l'attribuiscono alla mafia. È evidente l'influenza dell'attualità sul giudizio del passato. Qui uno sta proiettando quello che è oggi su quel che è stato ieri. Però quello stesso sondaggio aveva un elemento molto interessante. Cioè, quando poi si chiedeva ai ragazzi, ma secondo te, chi sono le persone più affidabili per raccontarti com'è andata la storia di Piazza Fontana? Il 54,4% indicava gli storici, il 42,2% i giornalisti, il 24,8% gli insegnanti, attenzione, il 18,2% i magistrati, il 12,2% i politici e fanalino di coda il 10,6% i poliziotti. Cioè, attenzione, che cosa è successo? È successo che la memoria del fatto è stata rimossa o è stata confusa, è rimasta la memoria del giudizio dell'inaffidabilità di poliziotti, magistrati e organi inquirenti in generale. Quello è rimasto invece un giudizio negativo, e politici è significativo questo. Lì è rimasto un giudizio negativo della serie, non sappiamo com'è andata, però sappiamo che a voi non possiamo credere. Il succo è questo. Perché si è sedimentato questo strano effetto? Ma il 54% chiede notizie agli storici. Il guaio è che gli storici non rispondono. Questo è il guaio. Fabrizio Fiume prima ricordava di un seminario di 4 anni fa a Vezio, nel quale, nel nostro dottorato, io venni contestato da alcuni colleghi che ritenevano un po' disdicevole occuparsi di argomenti così vicini, che tutto sommato ci sono tante altre cose di cui parlare, perché vuoi parlare di questo? Veniamo solo. Se voi andate a vedere la storia d'Italia repubblicana, scoprirete che lo spazio dedicato alle stragi non supera mai uno spazio che va dall'1,5 al 2% delle pagine. Molto spesso non sono neanche citate stragi come quella di Brescia. Sono cose liquidate molto frettolosamente, molto nervosamente, mentre invece molto più spazio è dato alle Brigate Rosse, al caso Moro, eccetera. Questo perché? Per una serie di ragioni. Perché lo storico nostro, quello che noi produciamo in queste aule, tendenzialmente in lettere, è uno storico non abituato alle fonti giudiziarie, che non sa manovrare un fascicolo giudiziario per conoscere la procedura penale, perché ha una certa diffidenza nei confronti del sensazionalismo, perché è un terreno insolito rispetto alla sua preparazione. Per tutta questa serie di ragioni aggiungete altri due elementi. L'altra colpa è della magistratura, che non ne ha risolta una di strage. Una ha risolto con sentenza definitiva Bologna, ed è anche una sentenza abbastanza discutibile. Dal mio punto di vista sono convinto che le cose dal punto di vista storico siano in modo un po' diverso da come racconta la sentenza. Ora, non potete pensare che questo non lasci in segno. La magistratura ritiene di poter tranquillamente dire di aver risolto Piazza Fontana assolvendo per l'ennesima volta degli imputati un paio d'anni fa. È ovvio che questo non significa che il caso è ancora aperto. Quello che viene fuori è che la magistratura è stata incapace di di risolvere episodi gravissimi per la sicurezza collettiva come delle stragi. Questo non può non lasciare quel sedimento di memoria di cui vi dicevo, di inaffidabilità nel senso nei confronti della magistratura. La magistratura che non risolve cose del genere non è affidabile. Ma nello stesso tempo in qualche modo spinge gli storici a tenersi lontani da un argomento dove il rischio di una querela, il rischio di un'azione civile per risarcimento a danno all'immagine, eccetera, induce lo storico e anche l'editore a tenersi a rispettosa distanza da questi argomenti. Morale: sui libri di storia questa roba non c'è. La memoria di questo è affidata a chi? A registi, attori, scrittori, giornalisti, cioè ai Lucarelli, ai Sarti, eccetera, che attraverso il teatro, la televisione, le canzoni, eccetera, mantengono questa memoria. Ma ovviamente con canali del genere si mantiene il giudizio, non il ricordo storico dell'argomento. In altri termini, io credo che qui sul banco degli imputati, per spiegare il perché di questo disastro, ci siano gli storici e i magistrati, prima di tutti gli altri, come categorie che sono venute remitenti a questo obbligo. Forse anche per questo io ho tentato di scrivere questo libro. È ancora utile fare controinformazione? Sì, anche se quello che c'è oggi non puoi definirlo controinformazione, è una cosa diversa, perché appunto, come ricordava Pietro Scaramucci, manca quell'elemento, quel tipo di militanza che faceva della controinformazione quel fenomeno particolare che sommava questa serie di elementi. Francesco Gironda dice: per fortuna capisco dal suo punto di vista la controparte. No, perché non è affidabile, quindi... è più affidabile. Potrebbe una radio popolare fa un'operazione non lo era anche all'epoca. Non fa un'operazione. Allora, ultima cosa: dalla storia al giallo si può procedere per ipotesi? La storia procede sempre per ipotesi. Guardate che è una leggenda quella di pensare